Siamo a Visionari, giovedì 8 novembre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. Per saperne di più sulla scaletta di oggi basta consultare il sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, troverete tutte le informazioni, mentre per comunicare con noi il numero di SMS per la diretta è 342 3574 357, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Partiamo con i nostri ospiti. Il produttore Gianluca Arcopinto per il ritorno della Pablo. Intanto Gianluca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene. Tutto bene. Allora, raccontaci un po' come sta proseguendo il viaggio, come riprende il viaggio. Ma il viaggio riprende in una maniera molto, molto, molto soft, molto contenuta, cioè non è che pensiamo di fare la rivoluzione. L'idea è quella di far vivere in tutte le maniere possibili e immaginabili alcuni film che sembrano non avere più diritto di vita in questo paese. Per cui, insomma, ritornare a fare il gioco che si faceva prima, tentare di prendere per mano un film e di portarlo anche porta a porta a tutte le persone che in Italia lo vogliono vedere, sfruttando però rispetto a 6 anni fa, sfruttando il fatto che sono aumentate anche le possibilità di visione di un film, quindi studiando bene il rapporto con la rete, quindi con lo streaming, con quello che sia. E quindi in questo senso c'è anche una grande voglia di rimettersi, appunto, a rimboccarsi le maniche, di trovare spazi che, appunto, purtroppo soprattutto questa ultima stagione sembra aver decisamente chiuso per un certo tipo di film. Mm-hmm. Il che ha anche comportato un abbandono sempre più forte da parte dei distributori tradizionali al cinema italiano. Mm-hmm. E allora, siccome questa è una cosa che secondo me non funziona, è grave e non mi piace, un tentativo lo voglio tornare a fare. Allora, il primo segnale mi sembra abbastanza indicativo, nel senso avete scelto, tra l'altro l'abbiamo avuto anche ospite qui da noi, il Gemello, un documentario di Marra, e quindi un'attenzione al documentario che in Italia sta dimostrando delle forze notevoli e anche una capacità di parlare del mondo, della società attuali. Sì, assolutamente, io credo che il documentario sia una delle forme più interessanti in questo momento, ma da tanti anni ormai in Italia. È più facile imbattersi in un documentario molto interessante che non in un film di finzione riuscito, per cui certo ci sarà un'attenzione anche al documentario. Poi iniziare con un documentario importante, secondo me, come quello di Vincenzo, che è anche un documentario che però va verso la finzione per certi versi, comunque un documentario molto narrativo, è un segnale che comunque andrebbe a battere in quella direzione, insomma, ecco. Senti, non sarà solo questo, saranno anche dei film di finzione pura, però. Ecco, indicativamente, come avete deciso di organizzare il lavoro, le uscite, dopo per esempio questo esordio con il Gemello, che struttura vi siete dati per sommi capi? Ma rispetto al Gemello in generale, dici? No, rispetto alle scelte sia dei titoli che le uscite, insomma. Ah, guarda, noi diciamo un po' come era prima la Pablo, non ci abbiamo mai avuto delle problematiche di listino predeterminato con un certo numero di film, che dicendo sicuramente ci sono dei film su cui lavoreremo a stretto giro, che già ci sono, da Dimmi che destino avrò di Peter Marcias, che andrà al Festival di Torino e poi comincerà a avere una vita, a Voci del silenzio di Rodolfo Bisatti, a un film molto curioso che è un incrocio tra il documentario e la finzione di Sandro Dionisio, Siamo un consiglio di Dio. Questi sono i primi titoli su cui lavoreremo, però mi piacerebbe comunque far vivere Lettera al deserto di Michele Occhipinti, Ritalza di Annalisa e Sofì Chiarello, insomma comunque ci sono un po' di titoli su cui lavoreremo in maniera diversa uno dall'altro. Mm-hmm. Poi un'altra cosa che faremo, anche se diciamo non so fino a che punto sarà visibile il nostro marchio, però spalleggeremo Salvatore Mereu nell'uscita nazionale, ripeto, sono di Cosas. Sì, quindi sì, comunque sì. Carne al fuoco ce n'è. Sì, sì, carne sì, al fuoco sì. Ce n'è. Ecco Gianluca, volevo chiederti per esempio rispetto al digitale e al web, come vi muoverete? Guarda, allora, diciamo rispetto al web soprattutto ci siamo già mossi, perché il film di Vincenzo Marra sì, sì. Parte da più 15.000, vale a dire che durante il Festival di Venezia per 55 ore il film è stato visibile su Repubblica.it e ci sono stati 15.000 spettatori, sì, sì, quindi sì, sì. Ci muoveremo in una maniera anche lì discontinua e diversa, cioè che appunto con Vincenzo abbiamo fatto questo tipo di esperimento, con Dimmi che destino avrò di Peter Marcese probabilmente è prevista una massiccia presenza in rete, però dopo l'uscita un po' più tradizionale in sala, però sicuramente un confronto continuo e anche con realtà diverse della rete ci sarà, perché io credo, continuo a pensare che la rete sia una cosa importante da non sottovalutare, anzi da su cui lavorare con attenzione. Non credo che, come si pensa, per un certo tipo di film sottrae pubblico alla sala, e non credo neanche di essere troppo scorretto nel voler stravolgere tutte le dinamiche di finestre, di copertura, perché gli esercenti sono molto contrari al fatto che un film passi in rete contemporaneamente alla sala e via dicendo, però va anche detto che la stragrande maggioranza degli esercenti ha sollevato una barriera rispetto a un certo tipo di film, che non troverebbe spazio nelle loro sale, quindi è chiaro che tutte le regole del gioco sono saltate. Sì, sì, sì, sì. Ecco, proprio rispetto a questo volevo chiederti come vedi lo stato del cinema al momento e quali strade possono seguire delle case di distribuzione indipendenti come la tua esperienza è stata ed è e continuerà ad essere. La strada attuale delle cose è un cinema italiano che sta andando per certi versi a morire, un certo tipo di cinema, nel senso che i risultati dell'ultima stagione sono devastanti, cioè tutti i film, tranne un paio, italiani, sono andati al di sotto delle aspettative, sì. Da quello che ha fatto 20.000 euro a quello che ha fatto 2 milioni, cioè, vuol dire, poi ognuno ha fallito il proprio obiettivo. Questo non fa che rendere più complicato il rapporto con gli esercenti e con i distributori per i film del futuro, quindi la vedo nera da questo punto di vista. Che cosa si può fare? Si può tentare di rosicchiare quei pochi spazi rimasti cercando di dare una visibilità che comunque è relativa a dei film, però tutto poi deve essere conseguente, per cui ci sta da investire pochissimi soldi nella distribuzione, perché saranno pochissimi gli spettatori, saranno pochissimi gli incassi, però credo che sia necessario continuare a provarci fino in fondo, fino all'ultimo spettatore, perché altrimenti bisogna arrendersi e dire ok, basta, certo, non facciamo certo. Più i tre quarti dei film italiani che si fanno, però poi si muore. D'altra parte, dal punto di vista da parte dello Stato, non c'è nessun interesse a che il cinema continui a vivere, che ci siano delle logiche dietro alle produzioni di film, per cui in maniera un pochino così donchisciontesca da un lato, romantica dall'altra e resistente dall'altra ancora, si cerca di fare il possibile e non ci si arrende. Certo. Gianluca, per chi volesse saperne di più sull'esperienza Pablo in rete, dove può cercare? Avete un sito internet? Allora, noi in questo momento non abbiamo un sito, sicuramente molte informazioni si possono trovare su Facebook, c'è una pagina Facebook di Pablo, c'è la mia, non ho la pagina, insomma ci sono io, però soprattutto c'è la pagina Pablo da cui si possono attingere tutte le notizie del caso. Probabilmente prima o poi faremo anche un sito, ma in questo momento il riferimento è alla pagina Facebook di Pablo. Allora Gianluca, io ti abbraccio, a risentirci presto. Ok, speriamo, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Il produttore Gianluca Arcopinto in merito al ritorno della sua Pablo. E torniamo ad ascoltare la voce di Alberto Lastrucci, direttore della 53esima edizione del Festival dei Popoli, che quest'anno si svolgerà in tre luoghi: al Cinema Odeon, allo Spazio 1, all'Istituto Francese a Firenze, dal 10 al 17 novembre. Alberto, ben ritrovato. Salve. Come va? Tutto bene. Tutto bene. E stanno scaldando i motori. Ci tengo poi a questo collegamento perché noi siamo a Roma. E domani comincia il Festival Internazionale del Film di Roma, e però io sento il Festival dei Popoli di Firenze, quindi vorrà dire qualcosa, insomma. Allora, intanto io comincerei proprio con questa sovrapposizione. Cosa mi dici in merito? Che purtroppo quest'anno non è stato possibile evitarla, ma riteniamo che non sia che sia stato, insomma, un incidente di percorso e che non si ripeterà, perché d'altronde due manifestazioni, è vero, così diverse, ma anche che comunque si svolgono in contemporanea, non è una cosa che giova a nessuno. Certo, certo. Allora, questa 53esima edizione com'è strutturata? Che caratteristiche avrà? Come tutti gli anni invitiamoli tutti a venire a Firenze per un appuntamento di 8 giorni sul cinema documentario, perché di questo tratta da sempre il Festival dei Popoli. Sì. Cinema che in questi ultimi anni sta mostrando una freschezza e una inventiva che lo rendono assai competitivo e assai originale rispetto anche alle altre forme di narrazione cinematografica, perché nel cinema documentario stanno emergendo nuovi talenti, ci sono nuove forme di narrazione che vengono sperimentate. Nelle ultime edizioni abbiamo dato modo di far vedere come il documentario sempre di più si mescola alla finzione, al film di animazione, al film sperimentale, quindi è veramente il laboratorio, diciamo, delle nuove idee, anche per il cinema del futuro. Sì, sì, sì, sì. Quanti sono i titoli presenti nella selezione, nel programma? Sì, il nostro festival presenta quest'anno 74 film. Sì. Selezionati a partire da 1600 candidature, quindi è stato un lavoro molto lungo e laborioso scegliere le opere che presenteremo, ma proprio in virtù di questi numeri siamo orgogliosi, ecco, di poter dire che sono tra i film più rappresentativi della produzione più recente. Mm-hmm. Opere che provengono da tutto il mondo, quindi ci sarà modo di vedere diversi luoghi di origine, paesaggi molto diversi, popoli, culture, lingue molto diverse. È un programma estremamente vario. Sono previsti anche gli autori di queste pellicole. Un'altra cosa, quali sono i temi più battuti? La presenza dei registi, naturalmente, sì, tutti i film sono accompagnati dai loro registi, tranne qualcuno che non sarà possibile avere perché aveva magari un altro impegno, ma venendo da così lontano è anche molto certo. Difficile affrontare certi viaggi. Infatti questo è uno degli elementi che rende poi lo stare al festival particolarmente piacevole e interessante, perché non ci sono molte formalità al nostro festival, gli spettatori possono conoscere da vicino gli autori, possono interagire con loro, ci sono spazi sia la mattina che poi nel pomeriggio e la sera in sala per porre ai registi delle domande, che sono ben lieti di rispondere, quindi ecco, c'è molta possibilità di toccare con mano, di chiedere, di poter trovare risposta alle proprie curiosità. E ti chiedevo, riguardo ai temi più battuti, cosa ti è parso dei titoli che hai potuto vedere? Facendo conto appunto di quanto dicevo prima rispetto alla varietà dei film selezionati, il documentario ha anche la possibilità di raccontare il mondo, di tastare un po' il polso della situazione, di capire come è lo stato di salute del mondo. Sì. Quindi, dato anche l'attualità, abbiamo certamente fatto in modo che ci fossero temi così importanti come la crisi europea, come la situazione nel mondo arabo, come il racconto appassionante dei sopravvissuti di Fukushima, che è una tragedia ancora in atto, nonostante che adesso mediaticamente se ne parli meno. Ci sarà un racconto molto molto particolare sui retroscena delle recenti Olimpiadi. Per questo, diciamo, il festival si occupa sempre molto del presente. Mm-hmm. Ma proprio perché si occupa del presente non si può far non si può mancare di raccontare anche l'individuo, quindi ci sono anche dei film molto intimi, di dimensione familiare, in cui si racconta l'essere adolescenti oggi, l'essere donna oggi, i rapporti tra le coppie, i rapporti con la famiglia. Sono anche questo un modo molto particolare per avvicinare lo spettatore, che naturalmente in queste dinamiche si può riconoscere facilmente. Certo. Alberto, per il programma c'è il sito internet del Festival dei Popoli. Sì, il nostro sito www.festivaldeipopoli.org, potete trovare descrizione di tutti i film, fotografie o naturalmente gli orari delle proiezioni. Bene, allora un abbraccio e un in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. A risentirci presto. Bene, vi aspettiamo a Firenze. Ciao Alberto. Alberto Lastrucci, direttore della 53esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 10 al 17 novembre. Questo è Visionari su Onda Rossa. Per quanto riguarda gli SMS, il numero è 342-3574-357, per la posta elettronica visionari@ondarossa.info. E ritroviamo anche Luca Mandrile, in questo caso co-regista del documentario La morte mi fa ridere, la vita no, di Piero di Livorno. Questa proiezione del documentario avverrà al Cineclub de Tour domani 9 novembre. Luca, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovato anche a te. Allora, Piero di Livorno, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Lino Ciampi, un cantautore livornese, singolare, anomalo nella storia della musica italiana. Mi è sconosciuto di più, spesso quando dicevamo che stavamo facendo un documentario su Piero Ciampi ci chiedevano se stavo facendo un documentario sull'ex Presidente della Repubblica. Per cui Ciampi, non... poco conosciuto, però con una nicchia di appassionati, sia tra gli altri cantautori, che poi una nicchia di pubblico molto fedele, agguerrita, che lo cerca di farlo conoscere il più possibile. E che appunto in qualche modo ha, come dire, anche sostenuto poi la diffusione di questo documentario. Senti, siete più di uno dietro la macchina da presa. Cosa vi ha spinto a raccontare questa storia di Piero Ciampi, e quali sono le caratteristiche che più vi hanno stimolato in lui? Ma diciamo che come todo modo abbiamo un po' il vizio di andare a cercare cose poco raccontate, o comunque andare a cercare quei personaggi, quelle storie che in qualche modo hanno avuto un momento di luce, di notorietà, e che poi sono scomparse così nel dimenticatoio per molti anni. Così è stato ad esempio per i Malestanti, dove avevamo recuperato l'esperienza di Diario di un Maestro di Vittorio De Seta. Così è stato per Ciampi. Ciampi era una nostra passione come ascoltatori, però appunto su di lui non era mai stato fatto nessun lavoro video che in qualche modo, come dire, raccogliesse un po' quella che era stata il suo lavoro, soprattutto la sua carica poetica, nel senso che Ciampi in realtà più che un cantautore è stato un grande poeta. E nessuno fino ad allora, cioè si parla del 2005, il documentario del 2005, nessuno l'aveva mai raccontato, e quindi ci sembrava, come dire, d'obbligo rendergli omaggio. E questo l'abbiamo fatto cercando, ovviamente Ciampi non c'era più, è morto nell'80, e l'abbiamo fatto andando a cercare testimoni a Livorno, che era la sua città di nascita e che in qualche modo ha, come dire, segnato anche il suo modo di essere in modo molto forte, e poi fra tutta una serie di altri artisti e amici che l'hanno poi accompagnato nel periodo romano, che è il periodo degli anni 70. Senti, questo titolo, La morte mi fa ridere, la vita no, in qualche modo lo rappresenta? È un verso di una sua canzone, sì. Che infatti è citata appunto all'inizio, e lo rappresenta, nel senso che poi Ciampi in qualche modo appunto aveva un modo di porsi nei confronti della vita, per certi versi in modo, cioè, così, di prenderla di, come dicono a Livorno, in ghigna, no? Cioè nel senso a viso aperto, e quindi no, sicuramente non lo spaventava il fatto, come dire, di la morte, ma anche nel senso anche la notorietà. Non è uno che ha cercato la notorietà, è uno che ha cercato in qualche modo di fare il suo percorso poetico, andando in qualche modo contro tutto e tutti, e diciamo vivendo una vita poi in realtà molto difficile, sia da un punto di vista personale che professionale. Mm-hmm. Perché diciamo molto spesso le case discografiche anche non lo sostenevano, nonostante magari venisse riconosciuto come un grande cantautore, però era una personalità molto difficile da gestire. Per fare un esempio, l'unico che in qualche modo l'aveva sostenuto poi è stato Melis all'epoca della RCA, e Melis diceva: io in qualche modo era il mio fiore all'occhiello, nel senso che nessuno l'avrebbe mai fatto suonare, io investivo su di lui, sapendo che andava a perdere tranquillamente, ma perdere anche nel senso che diceva: io gli davo l'anticipo del disco e lui spariva per un anno, e poi però magari faceva un disco meraviglioso dopo ritornava. Però è anche un po' questo, no? Il fatto, adesso probabilmente nessuno si potrebbe più permettere di fare un tipo di percorso del genere. Ecco. Per dire un'altra cosa che rappresenta bene Ciampi, che noi abbiamo messo diciamo nella sinossi del documentario, lui diceva questa cosa: cioè io sono il più grande perché posso permettermi di prendere 300.000 lire a sera per cantare per una serata e mandare un altro a cantare al posto mio, perché tanto nessuno sa chi è Piero Ciampi. Senti Luca, di cosa cantava Piero Ciampi? E poi volevo chiederti anche, visto che prima dicevi che è abbastanza misconosciuto oggi, cosa può cantare all'oggi che può essere ascoltato? Tanto, nel senso che poi appunto essendo un poeta, cioè nel senso, lui in qualche modo la sua carriera l'ha fatta negli anni 70, quindi dove c'era anche un grosso, cioè è stato diciamo il momento, no, di massima canzone anche politica, di protesta. Lui invece in qualche modo cantava di una ribellione, di una protesta molto più individuale, molto più personale, e in questo senso è anche meno datata, meno databile, nel senso per cui le cose di cui parla, che sono, che potevano essere, c'è un pezzo bellissimo che si intitola Andare, camminare, lavorare, che in qualche modo parla, no, del mondo del lavoro e dello sfruttamento, che vale ancora oggi, però come dire non è classificabile come canzone di protesta, per dire. Sì, e quindi in qualche modo rimane ancora fresco tutt'oggi, perché poi parla molto sul, le sue canzoni diciamo parlano molto sul piano umano, per cui non risentono del passare del tempo, ecco. Sì. Senti Luca, allora ricordiamo la proiezione al Cineclub de Tour domani 9 novembre, immagino ci sarete anche voi o no? Sì, ci siamo anche noi, quindi per chi volesse venire a conoscere Piero Ciampi e a conoscere noi, siamo lì disponibili per chiacchierare insieme, per vederci il documentario insieme. L'orario? Alle 21. Alle 21. Via Urbana 107. Benissimo. Avete anche altre informazioni online per quanto riguarda questo specifico titolo? Online c'è un profilo Vimeo, che è una sorta di YouTube, dove cercando Todomodo si trovano estratti dei nostri lavori, fra cui anche alcuni estratti di questo documentario, e poi c'è un blog che è Todomodo Films su WordPress, e anche lì si trovano informazioni su questo e sugli altri nostri lavori. Luca, risentirci presto, un abbraccio. Grazie anche a te. Ciao. Luca Mandrile, co-regista del documentario La morte mi fa ridere, la vita no, Piero di Livorno, al Cineclub de Tour domani venerdì 9 novembre. In collegamento con Marco Santarelli, che alla settima edizione del Festival del Film di Roma, nei giorni 11, 12 e 13, presenterà il suo documentario Mille e una notte. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, eccoci. Eccoci. Mille una notte, si parla di carcere, un tema a noi molto caro. Dicci un po' di questa storia. Guarda, io ho iniziato a girare la Dossa l'anno scorso perché mi interessava fare un lavoro di documentazione delle realtà soprattutto arabe che sono la Dossa, perché è il carcere con maggior numero di stranieri in Italia. Quindi mi sono avventurato e nei vari bracci ho iniziato a raccogliere storie, a raccontare storie a partire dalle domandine che i detenuti fanno ai capibraccio, alla direttrice per avere la possibilità di fare una telefonata, parlare con un parente, un avvocato, eccetera. E quindi a partire da queste domandine, da queste richieste, ho iniziato a incontrare detenuti e a mettere insieme i pezzi del documentario. Mm-hmm. Diciamo, quella è stata la partenza, è stata soprattutto perché mi interessava raccontare la condizione degli stranieri in carcere e soprattutto a Bologna, perché è la realtà quella della Dozza con maggior, come ti dicevo prima, un maggior numero di stranieri in Italia. Mm-hmm. Si parla di circa un 70%, 75% di stranieri di etnie diverse, magrebini soprattutto. Marco, quanto tempo ti ha preso questo lavoro? Quanto tempo ti sei dedicato alle riprese? Quante persone, con quanti detenuti, ma anche altre persone, sei venuto a contatto per sentire queste storie? Guarda, io ho fatto un lavoro di preproduzione di circa 3 settimane dove, lavorando soprattutto con i mediatori e gli educatori, sono riuscito a entrare i volontari soprattutto, che sono una componente fondamentale alla Dozza, perché senza di loro insomma verrebbe meno un po' tutto, insomma sono loro che soprattutto aiutano e danno una mano ai detenuti. Insomma, la realtà poi dei volontari a Bologna è molto forte e consistente. Quindi ho iniziato a incontrare operatori all'interno del carcere e lentamente mi sono avvicinato ai detenuti. Nel momento in cui, come dirò, ho messo insieme un po' di storie, poi ho iniziato a raccontarlo a partire, come ti dicevo, dalle loro richieste, fino ad arrivare poi a passare anche le ore di socialità, l'ora d'aria con loro, insomma, sono entrato lentamente e diciamo che la cosa è andata bene, insomma, perché siamo stati 5 settimane, però girando mattina, pomeriggio e sera, insomma, eravamo sempre lì. Abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio, perché nonostante l'autorizzazione poi non è facile, cioè una cosa avere un'autorizzazione dal Ministero per girare, un'altra cosa poi entrare e confrontarsi con dentro il carcere, insomma, anche perché poi noi ci interessava fare un lavoro di documentazione, quindi ci spostavamo spesso da un braccio all'altro e diciamo all'interno del carcere, come puoi immaginare, gli spostamenti non sono proprio facilissimi. Certo. Nonostante questo siamo riusciti insomma a incontrare, raccontare storie, insomma sono molto contento di questo lavoro, che poi ha anche, diciamo, un lavoro strano, perché io vengo da... A me interessava, ero partito per fare un racconto tutto dentro il carcere, poi però mi sono ritrovato a raccontare anche fuori dal carcere, in particolare la storia di una detenuta che aveva ottenuto negli ultimi giorni in cui stavamo girando all'interno del carcere un permesso per tornare a casa e di conseguenza ho fatto questa follia di cambiare il piano di produzione, allungare i giorni di riprese e seguirla in questo viaggio di ritorno a casa. Mm-hmm. Quindi diciamo è un documentario un po' strano, insomma, c'è una prima parte tutta girata all'interno del carcere, una seconda parte invece che si sviluppa tutta fuori, seguendo la vita poi di questa persona che aveva ottenuto, diciamo, un permesso per tornare a casa. E quindi insomma è un documentario un po' anche per me sorprendente, perché di solito non faccio queste follie, però insomma mi sembrava così forte la storia che ho sentito proprio la necessità di uscire e seguirla, insomma è andata bene. Senti, e considerando che il tuo è stato uno sguardo che ha avuto la possibilità di agire all'interno, quali sono i problemi principali che incontrano queste persone? Il problema principale ovviamente è quello che il problema poi dei soldi, sostanzialmente, perché poi, nel senso che io poi la cosa che mi ha colpito molto è la difficoltà che hanno nel riuscire ad avere ad esempio un piccolo lavoro per pagarsi anche lo stretto indispensabile, per poi anche e soprattutto non ritrovarsi fuori dal carcere a pagare allo Stato e alla giustizia. Quindi questa ossessione per il lavoro, questa ossessione per riuscire a fare qualcosa pur di non restare in cella, pur di comunque alzare un po' di soldi, ecco. Mm-hmm. E ovviamente queste richieste, diciamo che poi la gran parte delle richieste sono orientate in questo senso, insomma vanno nella direzione di chiedere un lavoro, no? E sono richieste che poi si perdono nei meandri della burocrazia interna, insomma. E poi considera che io sono stato soprattutto nella sezione giudiziaria della Dozza, che è un po' un limbo, no? Sì, del carcere, perché è un limbo, perché nel senso entri e puoi stare 6 mesi in attesa di un processo, 8, insomma, dove ci sono, nella sezione dove non ci sono, dove ci sono quelli che non hanno ancora una pena definitiva e quindi galleggiano in questa dimensione dove senza diritti sostanzialmente, perché nel momento in cui sei un giudiziario non puoi, fino a quando non è un primo grado di giudizio, avere un lavoro, ed è tutto difficile, tutto a volte anche impossibile, ed è, diciamo, la sezione più drammatica, la sezione che più mi ha colpito, ma è la sezione anche che in qualche modo cercavo, perché poi nel giudiziario trovi anche, insomma, trovi storie di tossici, spacciatori, insomma una realtà abbastanza pesante, drammatica, però io avevo, ecco, questa necessità di, e poi dove trovi soprattutto tanti immigrati, ecco, mm-hmm, stranieri, ecco, dentro per 6, 8, 9 mesi, un anno e mezzo, che vanno avanti grazie poi anche al sostegno dei volontari, che è quella, certo, la cosa che anche più mi ha colpito. Senti, senza i quali sarebbe un po'... Dimmi. No, dico che hanno un ruolo fondamentale, insomma, sì, che arrivano, certo, dove l'istituzione non arriva. Certo. Senti Marco, e fuori dal carcere quali sono le loro principali aspirazioni? E cosa vorrebbero fare della loro vita rispetto anche al luogo Italia, che magari è solo un terreno di passaggio? Sì, diciamo che insomma c'è... per la maggior parte di voi c'è la speranza di recuperare un pizzico di normalità, di tranquillità, ma diciamo che è un'impresa, perché poi soprattutto al giudiziario molti entrano, escono, quindi c'è, nel senso che poi una volta fuori si aprono altri problemi e che poi ti riportano a tornare, ad uscire, insomma è una situazione proprio di totale disperazione, guarda, non, questa è la cosa che più mi ha colpito, ecco. Sì, sì, sì. Senti, questo titolo, Mille e una notte? Mille e una notte perché è il titolo di una lettera di una detenuta, era l'inizio di una lettera di una detenuta che comincia proprio con sono qui da mille e una notte, e quindi questa cosa a me ha colpito molto e l'ho scelta come titolo del documentario, anche perché poi quando sei dentro non è che ti limiti a contare i giorni e le notti, ma conti di tutto, quindi anche il secondo, e quindi questa ossessione per il tempo mi ha colpito e insomma è da lì la scelta di dare il titolo al documentario Mille e una notte. Allora, ricordiamo le date di proiezione al Festival del Film di Roma, 11, 12 e 13 novembre, giusto? Esatto, sì, 11, 12 e 13 novembre, 11 e 12 all'Auditorium e il 13 al Barberini 2, bene, sala 2 del Barberini. Marco, un abbraccio, a risentirci presto. A presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Marco Santarelli, regista del documentario Mille e una notte, presentato alla 7ª edizione del Festival del Film di Roma nei prossimi giorni, l'11, 12, il 13 novembre per l'appunto. Bene, ritroviamo sul nostro cammino Aureliano Amadei, regista del documentario, il Leone d'Orvieto, Giancarlo Parretti e la scalata alla MGM, anche questo presentato alla 7ª edizione del Festival del Film di Roma, per la precisione nei giorni 13 e 14 novembre. Aureliano, ci sei? Ci sono, buongiorno. Allora, noi ci eravamo sentiti per il tuo film, il debutto nel cinema con 20 sigarette, questo è un documentario, intanto ti chiedo perché questa scelta? La scelta del tema o di fare un documentario? Entrambi direi. Allora, la scelta di fare un documentario, beh, insomma, io sono convinto che il documentario sia cinema tanto quanto il film di finzione, ed è un po' il mondo da cui vengo, ne ho fatti altri prima, e quindi mi ha fatto piacere tornare ad un'attività che è stata in passato anche una delle mie attività principali. Il tema viene da un'idea di qualche anno fa di fare una serie di documentari sui grandi crack finanziari. Con la mia piccola società di produzione ci siamo fondamentalmente specializzati negli ultimi anni, dal 2008, in sviluppo, scrittura e ricerca, e quindi abbiamo scritto questi 12 trattamenti per le 12 puntate, e una di queste 12 però emergeva evidentemente, insomma, aveva una grande relazione con il cinema, una grande relazione con una spy story che però potesse essere anche comica, in qualche maniera una commedia, emergeva immediatamente, e quindi senza ulteriori esitazioni, insieme a un altro produttore, Federico Schiavi di Sudwes, ci siamo messi siamo partiti anche un po' alla cieca con questo, con questo documentario, e del resto ultimamente le cose o così si fanno o non si fanno, quindi siamo partiti, e lì abbiamo trovato delle grandi sorprese. Senti Aureliano, anche per dare qualche traccia in più a chi ci ascolta, cosa ha combinato questo personaggio Giancarlo Barretti? Allora, Giancarlo Barretti nasce in Umbria a Orvieto nel 41, e dai primi lavoretti, in una famiglia umile, dai primi lavoretti da cameriere, si nota subito che ha bene altre ambizioni. Infatti comincia subito a fare il procacciatore di clienti per gli alberghi e i ristoranti di Orvieto. Negli anni successivi si associa con persone di tutto il mondo, legate principalmente da rapporti socialisti, da rapporti nel Partito Socialista, ma non solo, e inizia a fare delle grandi scalate finanziarie. Queste grandi scalate finanziarie sono fondamentalmente immobiliari, alberghiere, finanza pura, fino a che la sua strada a un certo punto non incontra il cinema. È difficile a credersi, perché lui li chiama licinimi, i cinema, e non è un particolare cinefilo, non è sicuramente un esperto di cinema, ma nell'arco di pochi anni scala prima la Pathé, grande storica casa di produzione francese, un pezzo di storia del cinema mondiale, poi scala la Canon International, grande casa di distribuzione e produzione di successi di botteghino, alla fine rimette tutto in discussione e fa il colpo grosso, sempre dicendo "me so comprato di cinimi" in dialetto umbro, senza parlare una parola di inglese, ma barca a Hollywood e compra la Metro-Goldwyn-Mayer, che in quel momento conteneva anche la United Artists. Quindi questo signore ha avuto per le mani la Metro-Goldwyn-Mayer, non c'è bisogno di sottolineare che stiamo parlando di un altro pezzo della storia del cinema mondiale, ha avuto per le mani tre colossi della produzione e della distribuzione cinematografica in quel momento. A quel punto chiaramente la gente si è iniziata a chiedere da dove venissero questi soldi e che tipo di personaggio avesse comprato la Metro-Goldwyn-Mayer. Iniziano delle guerre finanziarie fondamentalmente, e lui viene raggiunto da avvisi di garanzia, processato, viene pian piano estromesso dalla situazione della Metro-Goldwyn-Mayer, arrestato con il suo socio Fiorini, che si è fatto 4 anni di galera in Svizzera, vengono tutti arrestati, la Metro-Goldwyn-Mayer fallisce, il Credit Lyonnais appresso fallisce e costringe tutti i francesi a pagare una tassa speciale per tappare il buco creato dalla Banca Nazionale Francese, ovvero il Credit Lyonnais, e si parla probabilmente del più grande crack finanziario nella storia del cinema. Insomma. Dal punto di vista giudiziario cosa gli venne contestato? Allora, dal punto di vista giudiziario gli vennero contestati innanzitutto tutta una serie di reati minori commessi prima delle grandi scalate, della grande scalata alla Metro-Goldwyn-Mayer, quindi sì. Pian piano viene raggiunto da procedimenti che aveva accumulato in tutte le tante piccole e grandi scalate che aveva fatto nel corso del ventennio precedente, diciamo. E durante i processi alla Metro Goldwyn Mayer gli viene contestato di aver falsificato dei documenti, di aver in alcuni casi è stato addirittura accusato di antisemitismo negli Stati Uniti. Insomma, lui pare abbia fuggito la giurisdizione negli Stati Uniti e si è quindi trovato a si è trovato a scontare piccolissime pene in Italia, roba da 15 giorni di galera, insomma, non si è trovato a scontare piccolissime pene in Italia, chiaro che però con un'interdizione a mettere piede negli Stati Uniti o in Francia, fra l'altro. Con la sua finanza creativa, insomma. Storia di finanza e quindi, creativa. Diciamo, per me rappresenta in qualche maniera, in maniera molto ironica, perché questo personaggio è un personaggio che sa ridere di se stesso e comunque fa ridere, anche se non sapesse ridere di se stesso farebbe ridere lo spettatore, però seppur in chiave comica, questo segna un po' l'ingresso della grande finanza nel mondo del cinema e in qualche maniera è legato alla situazione attuale di crisi mondiale del settore. Uno dei problemi che escono più spesso quando si parla della grande crisi del cinema è che il cinema, non solo in Italia fortunatamente, ma al comune mezzo gaudio, ha una classe dirigente che molto spesso è del tutto avulsa all'arte cinematografica. Senti, dal punto di vista umano, che caratteristica avere nel ricordo di chi l'ha conosciuto, che immagino abbia parlato nel tuo film? Dal punto di vista umano, non bisogna mai dimenticare che è il Leone d'Orvieto, insomma, e che è anche il titolo del documentario. Lui è una persona molto combattiva, in alcuni casi anche piena di sé, arrogante, ma per l'appunto con un lato comico che è molto divertente. Io l'ho seguito per un paio d'anni alla fine, nell'ultimo periodo, e devo dire che mi sono anche affezionato al personaggio. È una persona cito semplicemente una sua frase che forse lo rappresenta. Poi dopo ci fu tutta questa guerra su di me, ma per me l'MGM era come una donna, l'importante era conquistarla, poi dopo quello che succedeva. Questo modo sbarazzino di affrontare una faccenda del più grande crack finanziario della storia del cinema è tipico del personaggio. Ecco, a proposito dell'ingresso della finanza nel cinema, che hai detto, insomma, che rappresenta un po' l'inizio di quello che è un processo che poi è continuato e sarebbe stato altrettanto devastante. Ecco, cosa dimostra quella vicenda rispetto anche alla situazione attuale? Lui è proprio l'emblema dell'imprenditore cinematografico che non ha molto a che fare con il cinema, e credo che in questo suo personaggio in realtà ci possa tranquillamente far pensare a tanti altri personaggi che conosciamo e che è tuttora al governo nel cinema italiano e non solo quello italiano. Quindi il tentativo subdolo, perché poi per l'appunto si tratta di una thrilling comedy, quindi si segue si rida quando c'è da ridere, e si segue una storia che in un certo senso è anche una spy story, un thriller economico, quindi in qualche maniera una storia che ti fa anche stare col fiato sospeso. Spero che ci sia spazio per fare una piccola riflessione e pensare che il cinema in fondo non è un prodotto, non è solo un prodotto, è di fatto qualcosa che è fatto anche di beni immateriali, e per questi ci vuole una passione che non è la stessa che si può avere nel vendere pannolini o succhi di frutta, insomma. Bene, Aureliano, allora ricordiamo le due date di proiezione all'interno dell'edizione, la settima edizione del Festival del Film di Roma, l'Auditorium, il 13 e il 14 novembre, Il Leone d'Orvieto, Giancarlo Parretti e la scalata all'MGM, un in bocca al lupo. Crepi il lupo, spero di vederti e vedervi tutti numerosi il 13 all'Auditorium, perché poi sai perfettamente che i documentari non hanno lo stesso tiro di pubblico, purtroppo, che hanno i film di finzione, vengono proiettati il pomeriggio, quindi abbiamo veramente bisogno di tutti quanti. Benissimo. Allora un abbraccio e a presto, Aureliano. A presto, grazie mille, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Aureliano Amadei, regista del documentario Il Leone d'Orvieto, Giancarlo Parretti e la scalata alla MGM. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. E ritroviamo anche Giuliano Bugani, in questo caso co-regista del documentario FIOM, Viaggio nella base dei metalmeccanici, che sarà presentato a Bologna al Casalone il 14 novembre. Giancarlo, ben ritrovato. Giuliano. Ci sei? Sì, sì, ciao, mi chiamo Giuliano. Cosa ho detto? Giancarlo. Giuliano, buongiorno, scusami. Tutti. Grazie della telefonata intanto. Sì, sì, sì, è stato un errore proprio così, non capisco perché. Non ti preoccupare. Allora, questa volta parli di FIOM, ma tu ti sei occupato anche di teatro in qualche modo, sempre attraverso delle storie operaie, in questo caso lo strumento cinema, in particolare il documentario. Ecco, sì. Perché intanto questa scelta e poi il tema rispetto alla FIOM e ai metalmeccanici? Allora, io intanto ho scelto di fare documentari perché io faccio documentari da 10 anni, documentari sociali. Sì. E la proiezione di un documentario ha un effetto maggiore rispetto a uno spettacolo teatrale. Poi si prestava molto al tema, perché spiego perché ho fatto il documentario. Il progetto nasce dopo la firma della segretaria della generale della CGIL Susanna Camusso sull'accordo delle rappresentanze sindacali del 28 giugno del 2011. Lì scatta la mia idea di fare un documentario. Sì. Perché erano da anni che io volevo fare un documentario sulla FIOM, ma non avevo mai i soldi, perché io autoproduco sempre i miei documentari. Mm-hmm. E davanti a questa firma ignobile io decisi che, soldi o non soldi, nonostante io sia ero in cassa e sono ancora in cassa integrazione, d'accordo con mia moglie troviamo i fondi familiari per fare il documentario, perché non si può star zitti davanti a questa vergogna della Camusso. Mm-hmm. questo accordo vergognoso. Sì. Che ha aperto la strada a tutto quello che sta facendo Marchionne con la FIOM dentro la Fiat. Certo. Se la Camusso versa lacrime di coccodrillo, cioè prima ha firmato questo accordo e poi dopo pretende di fare una legge sulle rappresentanze. Cioè è una venduta. Giuliano, ecco, come hai deciso di strutturare il tuo lavoro? Come l'hai organizzato? Cosa hai girato? Allora, il documentario dura 70 minuti. Sì. ed è un'inchiesta, un viaggio nella base dei metalmeccanici, perché raccoglie testimonianze di RSU FIOM, di fabbriche di tutta Italia, da Reggio Calabria a Torino, a Genova fino a Trieste, passando per Pisa, Bologna, Modena, eccetera. E sono dichiarazioni dei delegati di fabbrica che commentano l'accordo del 28 giugno e poi il documentario ha seguito tutto, durato un anno, sì, ha seguito tutto il processo politico, nel senso la caduta del governo Berlusconi, la riforma Fornero sull'articolo 18, la cancellazione del welfare, quindi la cancellazione della cassa integrazione della mobilità, l'innalzamento dell'età pensionabile, e ci sono i commenti dei delegati FIOM, perché la FIOM è stato l'unico sindacato che ha scioperato contro la Camusso subito dopo l'accordo del 28 giugno, sì. Ecco perché nasce anche un altro dei motivi per il quale nasce il documentario FIOM. La FIOM ha avuto il coraggio di scioperare per la prima volta nella storia della CGIL contro la CGIL stessa, ed è stato l'unico sindacato anche che ha scioperato per la difesa dell'articolo 18 il 9 marzo del 2012. Mm-hmm. Quindi è un documentario che un documentario storico, perché percorre un anno di battaglie fino alla sconfitta finale, perché poi, come sappiamo, il governo di Bersani, Alfano e Casini e Fini porta alla sconfitta dei diritti dei lavoratori sia sulle pensioni, l'innalzamento vergognoso a 43 anni dell'età pensionabile, la cancellazione della mobilità degli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, che è assolutamente indispensabile. Io me ne rendo conto, dopo 35 anni di fabbrica mi trovo in cassa integrazione ancora con i vecchi diritti, mentre se io fossi entrassi in cassa integrazione adesso la perderei nei prossimi anni, perché mm-hmm. entra in vigore la riforma Fornero. E poi anche la sconfitta dell'articolo 18, che è la più grande sconfitta storica del mondo sindacale, anche con il consenso del sindacato zerbino del Partito Democratico, che è la CGIL, mm-hmm. perché la CGIL non ha promosso nemmeno un'ora di sciopero sulla cancellazione dell'articolo 18. Senti Giuliano, in quest'anno di viaggio da nord a sud, intervistando operai appunto di ogni provenienza geografica, volevo chiederti quali sono le posizioni emerse facendo le interviste. Ma guarda, ti direi che c'è quasi un'unanimità sulla denuncia nei confronti della Camusso. E c'è quasi unanimità nel chiedere le dimissioni del segretario Susanna Camusso. Mm-hmm. E quasi tutti, tranne alcune isolate dichiarazioni, dove dicono, cioè tutti sono per le dimissioni della Camusso immediate. Alcuni dicono non serve che si dimetta, bisognerebbe che si dimettesse tutta la segreteria, perché se va via la Camusso, dicono, ne va su un altro uguale e siamo da capo. Mm-hmm. Quindi chiedono le dimissioni di tutta la segreteria. In ogni modo sono anche critici nei confronti della FIOM, nel senso che Landini non esce intatto da questo documentario. Mm-hmm. Sicuramente non è un documentario contro la FIOM, ovviamente, è un documentario sulla FIOM, però dentro la FIOM ci sono anche anime che criticano la gestione Landini, mm-hmm. perché Landini aveva promesso il 9 marzo, il giorno dello sciopero nazionale dei metalmeccanici, aveva detto testualmente se sarà necessario andremo sotto i palazzi del potere, e poi dopo lo sciopero del 9 marzo non è più successo niente, neanche dentro la FIOM, anzi addirittura quando noi abbiamo chiuso purtroppo le registrazioni sono successe cose vergognose dentro la FIOM, cioè Landini ha epurato tutta l'ala radicale della FIOM, Sergio Bellavita, Eliana Como, segretari sindacali nazionali di grande spessore sono stati epurati da Landini, mm-hmm. perché c'è uno schiacciamento, e questo si vede anche nel documentario, nelle dichiarazioni di alcuni delegati che sono profetici, uno schiacciamento della posizione di Landini sulle posizioni della Camusso per un riavvicinamento con FIM e WILM, mm-hmm. e quindi con CISL e WIL. Mm-hmm. Giuliano, volevo chiederti che intanto quali sono le dimensioni numeriche di una forza sindacale come la FIOM, e poi che destino avrà il tuo lavoro, dove vuoi farlo vedere? Ma guarda, noi abbiamo contattato un'infinità di editori e di giornali quotidiani, settimanali, periodici, e tutti ci hanno detto bellissimo il trailer, perché noi ovviamente mandavamo solo il trailer per sondare l'attenzione, bellissimo il trailer, però quando mandavamo poi anche il lungometraggio dicevano di no, che non erano disponibili a pubblicare una cosa simile. Mm-hmm. perché addirittura noi abbiamo avuto problemi con l'Arci di Bologna che ci hanno negato la sala per la proiezione. Cioè, quando hanno visto, hanno detto sì sì, vediamo la sala, poi quando hanno visto il documentario hanno detto no, non possiamo, perché è un documentario sicuramente è unico nel suo genere. Le dimensioni sono che è costato quasi 3.000 euro. No, dimensioni della FIOM come forza sindacale. La FIOM ha, credo, in Italia ci siano 2 milioni di metalmeccanici, di metalmeccanici. Però vorrei precisare che non è un documentario, è un documentario sulla FIOM, però c'è già interesse anche da parte di altre categorie. Certo. Perché quando si parla di articolo 18, quando si parla di innalzamento dell'età pensionabile e mobilità e cassa integrazione, si parla di tutte le categorie. Certo. La FIOM è la categoria che ha avuto il coraggio di scioperare. Io sono un operaio metalmeccanico, sono un tornitore, sono giornalista e sono stato anche uno degli autoconvocati della FIOM degli anni 90. Cioè, la FIOM ha sempre espresso delle figure un po' autonome rispetto alla CGIL. E questo sta interessando anche altre categorie, ma da pochi giorni, nel senso che noi abbiamo messo il trailer su YouTube e ha già avuto in poche settimane 1200 visite. E non abbiamo canale di distribuzione, cioè noi ci autoproduciamo e poi pensiamo intanto di proiettare il documentario. Già ce l'hanno chiesto in Lombardia, ce l'hanno chiesto in Toscana e qui in molte parti dell'Emilia Romagna. Poi siamo in contatto con alcuni soggetti della CGIL, che non anticipo per non bruciare la trattativa, certo. Ma sicuramente girerà parecchio questo documentario, sicuramente girerà molto, perché ci daremo da fare affinché questo avvenga. Certo. L'unico giornale che ha avuto il coraggio di pubblicare qualcosa è stato il Fatto Quotidiano, che ci ha già messo sulla pagina dell'Emilia Romagna in prima pagina. Giuliano, ecco, in chiusura volevo chiederti anche se oltre al trailer su internet, in rete, è possibile cercare maggiori informazioni da qualche parte. No, al momento su no. Internet se scrivete FIOM il film tutto attaccato, FIOM il film tutto attaccato, si può vedere solo il trailer ed è l'unico materiale che abbiamo messo. Benissimo, va bene. Perché il documentario, noi abbiamo stampato delle copie e le vendiamo. Certo. Va bene, allora risentirci presto per gli sviluppi di questo viaggio. Speriamo di presentarlo anche a Roma, ci hanno già chiamato. Ah, bene, magari ci sarà modo quindi anche volevo di vederlo. Volevo ringraziare anche gli Assalti Frontali, che in particolare Luca, che ci ha concesso le musiche del CD Profondo Rosso, che consiglio a tutti perché è un CD musicale profetico, straordinario. Bene. Allora lo salutiamo anche noi, visto che insomma viene da queste radici, da Radio Onda Rossa. Giuliano, un abbraccio, a risentirci. Grazie. Presto. Grazie a voi, ciao. Giuliano Bugani, co-regista del documentario FIOM, Viaggio nella base dei metalmeccanici, che sarà presentato al Casalone a Bologna il mercoledì 14 novembre. Benedetto Guadagno della Film Discount, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Come va? Va bene. Allora, con te per parlare di due lavori che avete messo a disposizione online, dici un po' di questa operazione, intanto partendo chiaramente dalla vostra esperienza Film Discount, Benedetto. Sì, sul canale Film Discount è possibile trovare questi due documentari che abbiamo appena messo su internet. Il primo, La morte di Girasole, è girato nel 2006, in occasione del centenario di questo fatto di sangue accaduto nella Lucania del 56, che parla appunto, è un fatto di sangue perché un ragazzo, Rocco Girasole, viene ucciso durante uno sciopero al rovescio dagli scelbini, dalla polizia di Scelbo. E niente, noi ricostruiamo questo questo accaduto attraverso vari punti di vista, quindi diciamo un racconto corale. Stesso impianto, diciamo, di narrazione per quanto riguarda Il sogno dei tetti, che abbiamo girato nel 2009 e che narra attraverso le parole degli stessi protagonisti questa avventura, questo collettivo che nasce all'interno dell'Alfa Sud. Operai, intellettuali, musicisti, strimpellatori si mettono insieme per cercare a partire dal recupero delle tradizioni della cultura orale che veniva messa in discussione dall'industrializzazione barbara, cercare di diciamo portare una testimonianza di quella che era la loro sofferenza. Il sogno dei tetti appunto è, possiamo definirlo una parabola, perché dal 74-75 fino ad oggi sono ancora in attività, noi ripercorriamo tutto il loro percorso e vediamo attraverso di loro come sono cambiati i tempi, insomma è una parabola dei tempi e delle crisi, delle scissioni che ci sono state anche all'interno del gruppo. Ecco, se c'è un filo rosso diciamo tra i due lavori possiamo dire che è la fame, cioè la narrazione della morte di Girasole nasce a partire dalla fame, la culla tragica diciamo da cui prende l'avvio il racconto e la vicenda, questi braccianti che cercano diciamo di spalare, fanno uno sciopero al rovescio, una pratica in quegli anni diciamo utilizzata per cercare di portare avanti delle recriminazioni. Mentre la fame è lo scoglio su cui diciamo si ferma, si infrange diciamo la parabola dei tetti, perché questo collettivo, questo gruppo diciamo poi ultimamente diciamo nel 2000, 2008, 2009 quando noi siamo andati a vedere cosa c'era nel collettivo, insomma si era scisso per vari motivi diciamo che poi potremmo interpretare come motivi che stanno poi in tutta la società, diciamo, quando i mezzi sono pochi, gli spazi sono pochi, i gruppi tendono più che altro a dividersi. E quindi tra l'altro del sogno dei Zezzi ne avevamo parlato proprio in trasmissione un po' di tempo fa. Sì, quando fu presentato nell'ambito del Doc Fest di Roma fu presentato l'Azzurro Scipione. Esatto. Sì. Senti Benedetto, raccontaci un po' anche dell'esperienza Film Discount. Ma l'esperienza Film Discount nasce sostanzialmente da un'amicizia, quindi un gruppo di amici che si mette insieme per cercare di dire qualcosa, per cercare di intervenire nel piccolo, diciamo anche. E soprattutto per cercare di portare avanti uno sguardo sostanzialmente sul presente, sull'esistente. Diciamo, a suo modo anche un collettivo che ha cercato di produrre e cerca ancora di produrre diciamo, discorsi e niente, una produzione indipendente che poi, diciamo, questo è un termine abbastanza equivoco, indipendente da che? Cioè, fondamentalmente se c'è un'indipendenza fino ad oggi è l'indipendenza dello sguardo, diciamo, uno sguardo che cerca affannosamente di farsi strada e quindi da qui anche diciamo l'approdo diciamo sul web. Una volta che i lavori hanno fatto diciamo il loro percorso nei festival, in rassegne e così via, abbiamo deciso di metterli sul web proprio per questo, per cercare di far continuare a circolare un'indipendenza di sguardo, uno sguardo che almeno noi così ce lo raccontiamo tra di noi, è uno sguardo che non fa sconti alla realtà, uno sguardo diciamo lucido che non si prende per il culo e che cerca comunque di proporre un orizzonte, diciamo, un antagonismo. Quindi la messa online di questi primi due lavori rappresenta l'inizio di un percorso comunque che intendete portare avanti? Dici un percorso su internet? Sì, dicevi prima, come hai spiegato adesso, dei film che una volta fatto il loro corso festivaliero ed essendo circuitati poi verranno messi online fruibili insomma liberamente. sì, fruibili liberamente. Possiamo dire che la messa online è appunto, come dicevo prima, il tentativo di preservare, di far circolare questo sguardo, sì, in mancanza, sì, diciamo, di altri canali distributivi. Certo. Se in futuro ci saranno altri canali distributivi, ben vengano, e comunque non verrà escluso la possibilità del web. Certo. Il web sicuramente, noi non abbiamo nessun feticismo, diciamo, sul mezzo. Non pensiamo che il web di per sé sia uno spazio di libertà assoluta, non pensiamo che sia libertà, diciamo, l'orgia delle immagini o dei discorsi. Quindi fondamentalmente è il tentativo di restare in questa realtà attraverso la testimonianza di quello che si è fatto. Poi in realtà siamo contenti che sono aumentate, diciamo, i lavori sono stati visti, quindi le visualizzazioni ci sono, ed è questo ci fa piacere. Allora, un'ultima domanda rispetto, ecco, questi due lavori affrontano sicuramente il tema del lavoro. Sì. Le tematiche a voi care, oltre a questa, ce le puoi già indicare? E anche poi rispetto alla Film Discount, anche dei riferimenti internet per chi vuole sapere di più sul vostro lavoro. La tematica del lavoro, diciamo, abbiamo sempre cercato di non circoscriverla alla tematica del lavoro in sé, quindi di settorializzare, diciamo, il discorso. Il lavoro è un punto di vista che permette dà la possibilità di poter illuminare altri aspetti della vita. Quindi questo ci sta a cuore, insomma, sostanzialmente la contraddizione, le contraddizioni sociali, il modo di vivere in generale. Per quanto riguarda i riferimenti internet, abbiamo la pagina Facebook Film Discount con la A, Discount, e la pagina YouTube Film Discount Italia. Bene, Benedetto, allora spero di risentirvi presto per delle novità. Sì, abbiamo un altro documentario in lavorazione che si chiama Questo Gesù che sarebbe Luigi, che, diciamo, formalmente è costruito in maniera totalmente diversa dagli altri documentari. Non sono interviste, non sono interni, ma è appunto il tentativo di buttarci nella situazione, una situazione anche qui, diciamo, di coralità, di collettività, un'esperienza teatrale, amatoriale, di bambini di strada che mettono in scena la passione di Cristo. Bene. Allora, spero che avremo modo di riparlarne da questo momento. Speriamo anche noi. Grazie Federico, grazie a Radio Onda Rossa. A presto, ciao. Benedetto Guadagno della Film Discount. Un ultimo collegamento e poi vi ricordo i nostri numeri per mandarci SMS 342-3574-357 per la posta elettronica visionari@ondarossa.info. Allora, Giampaolo Bigoli, finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Allora, benvenuto a Radio Onda Rossa, qui in veste di coregista del documentario Love Birds, che è stato programmato all'interno della rassegna di Doc 3 su Rai 3. Intanto ti chiedo se avete avuto modo di sapere che gradimento televisivo, che utenza c'è stata. L'utenza si avvicina alle 400.000 persone. Adesso non saprei quantificare lo share, è uno share medio, diciamo, che però, essendo il 25 luglio, probabilmente anche in un certo qual modo, credo, giustificato, essendo comunque una giornata di estiva e quindi magari non tutte le persone erano davanti alla televisione, però io queste logiche non le so. So che lo share è stato medio. Allora, non esaltante, ma nemmeno poteva andare peggio, probabilmente. Allora, Love Birds è un titolo in inglese perché non si parla di una storia in Italia, ma il viaggio vi ha portato in India, se non sbaglio. Esattamente, è una storia ambientata in India e parla di amanti ribelli, che sono appunto questi Love Birds. Sono amanti intercasta che decidono di amarsi, unirsi in matrimonio, nonostante il divieto in India di sposarsi tra caste diverse. e quindi, diciamo, per semplificare per la questione, sono una sorta di Romeo e Giulietta indiani che decidono di sfidare la tradizione e la volontà della famiglia, in particolare del villaggio, o comunque di amarsi, stare insieme, e quindi questa loro scelta li porta a decisioni, li porta a conseguenze drammatiche, anche la morte, diciamo. Ecco, proprio questo, Giampaolo, volevo chiederti se sono casi isolati oppure frequenti e a cosa vanno incontro. No, guarda, non sono casi isolati, si registrano almeno solo negli stati del nord dell'India un migliaio di casi di omicidio, di honor killings, omicidi d'onore li chiamano, ogni anno, e tu devi tenere conto che comunque non è facile registrare questi casi, perché come spesso le violenze domestiche, comunque tutto ciò che è legato all'ambito e alla sfera del privato, spesso è difficile che emerga. Quindi immaginiamoci, se sono solo 1000 i casi di honor killings registrati, puoi capire quanti in realtà possono essere. Certo, tantissimi, certo, insomma. Certo. È una quantità difficile da tenere sotto conto, e comunque al di là delle uccisioni, loro, chi decide di intraprendere questa scelta, cioè gli amanti intercasta, devono comunque scappare dalle famiglie, scappare dai parenti, scappare dai, diciamo, da quelli che vengono chiamati Kappanchais, che sono una sorta di consigli del villaggio, che comunque regolano la vita e le funzioni delle persone. E quindi devono affrontare delle difficoltà molto grandi, molto grandi. Senti, due domande mi vengono in mente. Intanto, la realtà delle caste è immutabile nel tempo o sta mostrando delle crepe? No, io credo che stia mostrando delle crepe, credo che non sia una realtà immutabile, e credo che queste decisioni, queste testimonianze rappresentano comunque, sì, sono scelte isolate, ma comunque sono scelte molto forti, e il fatto che ci siano ad esempio associazioni come quelle dei Love Commandos, che sono quelli che poi hanno aiutato noi a realizzare il documentario e che aiutano queste coppie, offrendo loro supporto legale, un rifugio, e spesso semplicemente ascoltandole, rappresenta il fatto che comunque la realtà sta cambiando, anzi che la realtà indiana è una realtà in mutamento, e questo è un dato comunque importante. In che luoghi vi siete spostati? Allora, diciamo che noi facevamo base a New Delhi, perché New Delhi era lì che c'era la sede di questo piccolo gruppo di volontari, appunto, che si chiama Love Commandos. Abbiamo incontrato le prime coppie attraverso i Love Commandos, e poi abbiamo cominciato a seguirli attraverso il nord dell'India, nei loro spostamenti, nei loro tentativi di ritornare a casa e riappacificarsi con le famiglie. Alcuni tentativi sono riusciti, altri no. E questo raccontiamo, diciamo, nel film. Raccontiamo tre storie, una delle quali finisce bene, una delle quali quindi finisce male, gli amanti restano separati, e una, diciamo, in sospeso, un pareggio, ecco, potremmo dire, un pareggio in cui comunque interlocutoria, insomma. Sì, molto interlocutoria. Okay. Sì, ed è anche il finale del film, un finale interlocutorio. Sì. Giampaolo, che futuro avrà questo lavoro? Sono in programma prossime proiezioni o passaggi televisivi o altro? Allora, noi siamo stati in questo momento selezionati all'IDFA, che è un festival ad Amsterdam, direi importantissimo, uno dei festival più importanti relativamente al film documentario, e ci saranno delle proiezioni, ci saranno 4 proiezioni in questo mese di novembre, tra il 13 e il 22 ad Amsterdam, e noi siamo in concorso, e quindi, insomma, è un momento già importante. Altre proiezioni italiane in questo momento ancora non ce ne sono, perché c'è appena stato, appunto, il passaggio Rai quest'estate, quindi per ora, diciamo, non ci sono proiezioni italiane. Cercheremo comunque di mandarlo anche a festival internazionali, anche a festival italiani. Per ora siamo concentrati più sull'ambito internazionale, anche perché comunque questo documentario ha un respiro internazionale. Certo. Diciamo che all'estero il documentario è maggiormente considerato, e quindi per forza di cose noi dobbiamo anche rivolgerci a questo tipo di, sfortunatamente dico, questo tipo di audience, certo, e questo tipo di mercato. Ecco, proprio in base a questo respiro internazionale, come era nata l'idea di affrontare questa tematica? L'idea nasce da uno dei, che è diventato poi il membro della squadra e che ha realizzato con insieme a me il prodotto, un fotoreporter che si chiama Marco Gualazzini, un amico, che a un certo punto mi ha chiamato e mi ha detto: ecco, io sto facendo questo servizio, vuoi venire con me? Perché secondo me tu potresti realizzare un film documentario. Quindi nasce così, nasce come un reportage fotografico che poi si è trasformato in un documentario. Dopo abbiamo iniziato a collaborare, infatti lui è anche una delle persone che insieme a Maria Chiara Illica Magrini, una giornalista, ha partecipato appunto a questa avventura. E insieme abbiamo portato poi a casa questo prodotto. Ci avevamo messo 4 mesi, insomma, per realizzare questo documentario. Siamo stati in India 2 volte, è stata un'esperienza dura ma molto molto molto molto intensa e importante per tutti noi, insomma. Bene. Giampaolo, mi ha fatto veramente piacere, era un po' che ci inseguivamo, a questo punto spero di risentirti presto per magari nuove tappe di questo viaggio Lovebirds e anche magari per eventuali prossime novità legate ad altri lavori. Perfetto, sì, guarda, per me sarà un piacere e spero, insomma, che sia l'opportunità che molte persone vedano questo lavoro, perché al di là del mio coinvolgimento personale è una tematica che io considero universale, certo, perché comunque la scelta individuale di una persona che decide di andare contro le regole per amore è un messaggio universale ed è una storia universale, quindi non solo una storia, diciamo, indiana. Bene. Giampaolo, un abbraccio, a presto. Grazie mille, un abbraccio a te. Ciao. Giampaolo Bigoli, co-regista del documentario Lovebirds, e con questo finiamo la puntata odierna di Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Ogni riferimento alla scaletta di quest'oggi lo trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, lì trovate gli ospiti, le uscite in sala di oggi giovedì 8 novembre, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, la programmazione in TV per quanto riguarda i film sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra rassegne, festival e proiezioni in giro per l'Italia, il link che rimanda alla puntata precedente e anche quello che rimanda all'archivio di tutto il 2012.